Lamentazioni. Come mai siede solitaria la città grande di popolo? È divenuta come vedova la grande fra le genti, la principessa fra le province è divenuta tributaria. Piange, piange nella notte e le sue lacrime sono sulle sue guance. Non ha un consolatore fra tutti i suoi amanti. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici. Giuda è partito in esilio per miseria e per grande schiavitù. Abita fra le genti, non trova mai riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto fra le gole anguste. Le strade di Sion sono il lutto, perché non si viene più alla festa. Tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sono in gemito, le sue vergini addolorate, ed essa vive nell'amarezza. I suoi oppressori hanno il dominio, i suoi nemici sono fortunati, perché il Signore l'ha afflitta a causa dei molti suoi peccati. I suoi bambini sono andati schiavi dinanzi all'avversario. È scomparso dalla figlia di Sion tutto il suo splendore. I suoi principi sono divenuti come cervi che non trovano pascolo. Marciano senza vigore dinanzi al persecutore. Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo errare, tutti i suoi beni preziosi che possedeva da giorni antichi. Ricorda quando cadeva il suo popolo nella mano del nemico e non vi era soccorritore per lei. L'hanno vista gli avversari, hanno riso della sua distruzione. Ha peccato Gerusalemme, per questo è divenuta cosa immonda. Tutti quelli che l'onoravano la disprezzano perché hanno visto la sua nudità. Anch'essa sta gemendo e si volge indietro. La sua impurità è sulle sue frange. Non ha sospettato del suo avvenire. È caduta in modo sorprendente senza che alcuno la consoli. Guarda, Signore, la mia miseria, perché il nemico si insuperbisce. L'avversario ha steso la sua mano su tutti i suoi tesori. Ella ha visto i pagani entrare nel suo santuario, per i quali tu avevi ordinato: non entreranno nella tua assemblea. Tutto il suo popolo è di gementi cercatori di pane. Danno i loro gioielli per pane, per riprendere la vita. Guarda, Signore, e fissa lo sguardo, perché sto divenendo spregevole. O voi tutti che passate sulla via, fissate lo sguardo e vedete se v'è dolore simile al dolore mio, quello che mi è stato inflitto, quello con cui il Signore mi tormenta nel giorno dell'ardore della sua ira. Dall'alto ha scagliato un fuoco, l'ha fatto scendere nelle mie ossa, ha teso una rete ai miei piedi, m'ha fatto cadere all'indietro, m'ha reso una desolata, una che soffre tutto il giorno. ha vegliato sui miei peccati. Nella sua mano sono intrecciati, essi gravano sul mio collo. Ha fatto vacillare la mia forza. Il Signore m'ha consegnato nelle loro mani. Non posso più rialzarmi. Ha ripudiato tutti i miei forti il Signore in mezzo a me. Ha convocato contro di me un'adunanza per fiaccare i miei giovani. Un torchio ha pigiato il Signore per la Vergine figlia di Giuda. Per queste cose io piango. Il mio occhio, l'occhio mi si scioglie in lacrime, perché è lontano da me il Consolatore che mi renda la vita. I miei figli sono desolati, perché il nemico è stato più forte. Sion tende le sue mani, nessun consolatore per lei. Il Signore ha disposto per Giacobbe che i suoi vicini divenissero suoi nemici. Gerusalemme è diventata in mezzo a loro come una cosa impura. Il Signore è giusto, perché sono stata ribelle alle sue parole. Oh, ascoltate, popoli tutti, vedete il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono partiti per l'esilio. Ho chiamato i miei amanti, essi mi hanno ingannata. I miei sacerdoti e i miei anziani sono spirati nella città mentre cercavano cibo per riprendere la vita. Vedi, Signore, che angoscia è la mia. Le mie viscere fremono. Il mio cuore è sconvolto in me perché ribelle sono stata io. Fuori mi priva di figli la spada. In casa è come la morte. Senti come io gemo. Nessuno che mi consoli. Tutti i miei nemici hanno udito la mia sciagura, hanno gioito perché tu l'hai procurata. Fa che venga il giorno che tu hai ordinato e divengano simili a me. Giunga tutta la loro malizia dinanzi a te ed opera con loro come hai operato con me per tutte le mie colpe. Molti sono i miei lamenti ed il mio cuore languisce. Come mai ha oscurato nella sua ira il Signore, la figlia di Sion? Ha scaraventato dal cielo alla terra la maestà di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno del suo furore. Il Signore ha inghiottito senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe. Ha demolito nel suo furore le fortezze della figlia di Giuda. Ha gettato a terra, profanato, il regno e i suoi principi. Ha infranto nell'ardore dell'ira tutta la potenza d'Israele. Ha ritirato indietro la sua destra dinanzi all'avversario. Ha acceso contro Giacobbe come un fuoco, una fiamma che divora intorno. Ha teso il suo arco come un nemico. Irrobustita la sua destra come un avversario. Ha ucciso ogni cosa che affascina gli occhi. Nella tenda della figlia di Sion

non dare riposo a te stessa, non taccia la pupilla del tuo occhio. Sorgi, grida nella notte al principio delle veglie notturne e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza a Lui le tue mani per la vita dei tuoi fanciulletti che svengono per fame all'imbocco di tutte le strade. Guarda, Signore, e fissa lo sguardo. Chi hai trattato in questo modo? Dovevano le donne mangiare i loro frutti, i bimbi che si cullano sulle braccia? Dovevano essere uccisi nel santuario del Signore il sacerdote e il profeta? Giacquero per terra nelle strade, fanciullo e anziano, le mie vergini e i miei giovani sono caduti di spada. Hai ucciso in giorno di tua collera, hai trucidato senza pietà. Hai convocato come in giorno di festa quelli che attorno mi fanno paura. Non vi è stato nel giorno dell'ira del Signore scampato o superstite. Quelli che ho tenuto in braccio ed allevati, il mio nemico li ha sterminati. Io sono l'uomo che ha visto la miseria sotto la verga del suo furore. Mi ha guidato e fatto camminare in tenebra e non in luce. Sì, contro di me volge e rivolge la sua mano tutto il giorno. Ha disfatto la mia carne e la mia pelle. Ha spezzato le mie ossa. Ha fabbricato contro di me e mi ha avvolto di veleno e di amarezza. In luoghi tenebrosi m'ha fatto abitare come i morti da tempo. Ha innalzato un muro attorno a me. Non posso uscire. Ha appesantito la mia catena. Anche se gridassi e implorassi, egli soffoca la mia preghiera. Ha murato le mie strade con massi tagliati. Ha deviato i miei sentieri. Orso in agguato è stato per me, un leone nei nascondigli. Le mie strade ha deviato, m'ha dilaniato, m'ha fatto oggetto di desolazione, ha teso il suo arco e m'ha posto come bersaglio alla freccia. Ha conficcato nei miei reni le frecce della sua faretra. Sono diventato il riso di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Mi ha satollato con erbe amare e dissetato con assenzio. Mi ha spezzato i denti con ghiaia, m'ha fatto cadere nella polvere. Si è allontanata dalla pace l'anima mia. Ho dimenticato la felicità. Ho detto: è svanito il mio vigore e la mia speranza nel Signore. Ricordare la mia miseria e il mio vagare è assenzio e veleno. Ricorda, ricorda, e si piega su se stessa l'anima mia. Questo io richiamo in cuor mio, perché io possa sperare. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue compassioni, si rinnovellano ogni mattino, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, dice la mia anima, per questo spero in Lui. Buono è il Signore per chi spera in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è attendere e in silenzio la salvezza del Signore. Buona cosa è per l'uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Sieda in disparte e taccia quando egli l'avrà posto su di lui. Metta nella polvere la sua bocca. Forse vi è ancora speranza. Offra a chi lo percuote la guancia. Si sazi di obbrobrio. Perché il Signore non allontana per sempre i figli dell'uomo. Perché se affligge, ha pietà, secondo la grandezza delle sue grazie. Perché non di buon cuore umilia e affligge i figli dell'uomo. Quando uno calpesta sotto i suoi piedi tutti i prigionieri di un paese, quando uno perverte il diritto d'un uomo dinanzi al volto dell'Altissimo, quando uno fa torto ad un uomo nel suo processo, il Signore non vede? Chi disse una cosa e fu fatta? Non l'ha forse comandata il Signore? Dalla bocca dell'Altissimo non procedono i mali e i beni. Perché si lamenta l'uomo, l'uomo che vive malgrado i suoi peccati? Investighiamo le nostre vie e scrutiamole. Torniamo al Signore. Eleviamo il nostro cuore sulle mani al Dio che è nei cieli. Noi abbiamo peccato, siamo stati ribelli, e tu non hai perdonato. Ti sei avvolto di furore e ci hai inseguito, hai ucciso, non hai avuto pietà. Ti sei avvolto in una nube perché non passasse la preghiera. Spazzatura e rifiuto ci hai resi in mezzo ai popoli. Hanno spalancato contro di noi la loro bocca tutti i nostri nemici. Terrore e fossa sono stati per noi, sterminio e rovina. Il mio occhio gronda rivi di lacrime per la rovina della figlia del mio popolo. L'occhio mio si discioglie e non ha sosta. Non ha sollievo fino a quando il Signore guardi e veda dai cieli. L'occhio mio tormenta la mia anima alla vista delle figlie della mia città. Mi hanno dato la caccia come a un uccello quelli che mi odiano senza motivo. Hanno buttato nella fossa la mia vita e gettato pietre su me. Le acque hanno sommerso il mio capo. Ho detto: sono perduto. Ho gridato il tuo nome, Signore, dalla fossa più profonda. La mia voce hai udito. Non chiudere il tuo orecchio al mio grido. Ti sei accostato quando ti ho chiamato. Mi hai detto: non temere. Hai difeso, Signore, la mia causa. Hai riscattato la mia vita. Hai visto, Signore, la mia umiliazione. Difendi il mio diritto. Hai visto tutte le loro vendette, tutti i loro complotti contro di me. Hai udito i loro insulti, Signore, tutti i loro complotti contro di me. Le labbra dei miei aggressori e i loro disegni contro di me tutto il giorno. Seggano o si alzino, tu osservali. Io sono la loro canzone. Rendi loro la mercede, Signore.